La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è dedicato alla storia dei terremoti e in particolare ai diversi tentativi del passato di prevenirne i danni più devastanti. Ospita ai nostri microfoni Emanuela Guidoboni, storica e dirigente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Nella seconda parte vi proponiamo un radiodocumentario dedicato alla figura del generale Patton e alla battaglia di Bastogne, cittadina che è stata teatro di uno degli scontri più duri tra americani e tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Vi segnaliamo che la versione integrale del documentario andrà in onda su History Channel domenica 14 giugno alle 17. Ma adesso la parola va a Dino Pesole. Il terremoto che ha colpito l'Abruzzo lo scorso 6 aprile, che verrà ricordato in una gara di solidarietà con il concerto in diretta del 21 giugno a San Siro, che anche Radio 24 seguirà appunto in diretta, bene, il terremoto dell'Abruzzo ha riaperto, come sappiamo, l'antico e irrisolto problema dei metodi per costruire edifici con criteri antisismici. Nella storia dei terremoti è questione che attraversa i secoli, cui si è tentato di dare risposta con esiti molto spesso negativi. Nel numero di giugno di Storica, la rivista di National Geographic dedicata appunto alla storia, ci viene proposto un interessante viaggio nei tentativi di prevenire, quantomeno, i danni devastanti dei terremoti, che ci porta dal terremoto che colpì Ferrara nel 1570 al tremendo terremoto che colpì Lisbona il 1 novembre del 1755, che causò decine di migliaia di vittime. Per non parlare poi del terremoto che colpì Messina all'inizio del secolo scorso. In Italia, già nel VI secolo, era ben chiara la consapevolezza che la brutale violenza dei sismi poteva essere contrastata con la costruzione di edifici solidi, come la chiesa di Santa Maria Rotonda di Catania, situata in una zona ad altissima sismicità e che ha resistito a diversi terremoti catastrofici. Nel mondo, invece, il primato è dell'Armenia, che già dal V secolo ha saputo consolidare i propri edifici, dando vita a un vero e proprio stile architettonico e realizzando chiese che sono rimaste integre fino ai giorni nostri. Inoltre, è stato attribuito proprio a un architetto italiano del Cinquecento, Pirro Ligorio, il primo progetto di casa antisismica del mondo occidentale, ideato sulla base di conoscenze che sono andate consolidandosi notevolmente nei secoli, ma che tuttavia, come dimostrano i recenti fatti di cronaca, nella maggior parte dei casi non sono mai state applicate. Il problema allora non è tanto nei criteri con cui costruire edifici in zone sismiche, ma l'effettiva possibilità o capacità di renderli effettivamente operativi. Eppure basterebbe rifarsi a esperimenti tentati da altri paesi, ma anche dal nostro nel corso della storia, come ci suggerisce la ricerca della rivista storica di National Geographic. Diversi mastri muratori e ingegneri dal 600 in poi hanno lasciato preziose perizie scritte sui danni dei terremoti. Da queste osservazioni dirette traevano molte indicazioni pratiche su come costruire meglio le case. Ad esempio, era un dato acquisito che per difendersi dai terremoti occorreva che i muri delle abitazioni fossero su uno stesso piano, che le travi fossero ben incastrate tra le pareti per reggere le spinte diagonali, che le pareti d'angolo fossero ben rinforzate con chiavi di ferro o con pietre angolari, che non fossero utilizzate malte povere e sabbiose, né ciottoli di fiume, che i tetti non fossero spingenti sui muri esterni, ma ben sostenuti da solai lignei. La domanda che ci si può porre è perché, nonostante questo bagaglio di conoscenze, si è continuato negli anni e nei secoli fino ai nostri giorni a costruire ugualmente le abitazioni con materiale non idoneo e non si è fatta, in poche parole, alcuna prevenzione. Giriamo la domanda a Emanuela Guidoboni, storica e dirigente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che studia i terremoti da molti anni. Grazie, dottoressa Guidoboni, per aver accettato il nostro invito. Prima di tutto, quale insegnamento trarre dai terremoti del passato? Dunque, l'insegnamento non è univoco. I terremoti del passato sono un'eredità molto complessa e ci pongono anche questo problema. Qual è stato l'immaginario di sicurezza abitativa che c'è stata nel tempo? Perché non c'è dubbio che da un lato si sapeva costruire. In Italia c'è stata una grande cultura architettonica di grande costruzione, ce lo attestano anche i monumenti, mentre non c'è stato un impegno nel tutelare le case, l'edilizia civile minore. E questo ha una lunga storia ed è un concetto che è oscillato nel tempo e che sta per essere esplorato da punti di vista diversi. Per esempio, posso continuare? Certo, vada. Per esempio, un elemento che si evidenzia in questo settore è il non avere razionalizzato il fenomeno del terremoto. Cioè, il terremoto per molti secoli è stato considerato un segno, un significato di qualcos'altro e quindi interpretato in modo molto forte in chiave religiosa ed etica. Ecco, questo ha scoraggiato certamente un atteggiamento di difesa. E sono stati, è vero, tutto ciò è avvenuto in periodi in cui la vita umana anche aveva poco peso, no? Si moriva per guerre, per epidemie, per tanti eventi, per cui il terremoto era uno dei tanti eventi che rendeva insidiosa, instabile la vita sulla Terra. E direi che come eredità del mondo antico c'è stata una riscoperta di questo concetto all'inizio dell'età moderna. Sì. È proprio con un grande architetto, con Piero Ligorio, che si comincia a definire il primo progetto di casa antisismica, e ritenendo che la difesa dal terremoto sia addirittura un dovere della razionalità umana. Ecco, c'è una grande svolta, però purtroppo non ha fatto cultura, non è stato diffuso, è rimasto manoscritto e ci sono stati tanti elementi che hanno impedito la diffusione di questa cultura della difesa dal terremoto. Ecco, questo è un aspetto molto importante, quello della cultura antisismica, che da noi, ma credo anche questo è un giudizio che si può estendere ad altri paesi, non ha prodotto grandi risultati, se lo dimostrano gli eventi appunto recenti. Sì, è vero questo, non c'è stata una risposta della cultura abitativa in difesa, proprio per difendersi dagli effetti dei terremoti, e mentre invece non sono mancati tanti studi su questo settore. Già nel 600 ci sono personaggi come il veneziano Sguario, il Francesco Travaggini, che studiano proprio l'oscillazione delle case, studiano come rinforzare con tecniche particolari le case, però non hanno fatto cultura se non in ambiti estremamente ristretti, e si nota questa continua proprio biforcazione tra la ricerca teorica e l'applicazione. E direi che è esistito, non c'è dubbio, un grande sapere pratico anche nei costruttori, ed ecco che si può notare storicamente come si inserisce un'altra forza che ha deformato, diciamo, questo concetto abitativo, che sono i bisogni economici. Quindi il bassissimo livello economico di tantissime aree del centro-sud dell'Italia sono state deformate, diciamo, da questa pressione, no? Della storia, del bisogno, della sopravvivenza al di là, quindi non c'è stata la possibilità di scegliere dei progetti, di scegliere delle tecniche abitative, ma era una popolazione legata alla sopravvivenza. Quindi questo della povertà anche così forte, diffusa, di una bassissima produzione economica ha senz'altro inciso moltissimo nel definire questa situazione storica. Sì, nell'articolo si cita l'Armenia come area fortemente sismica, come sappiamo, che ha sviluppato nel tempo una cultura antisismica molto forte. Sì, applicata però Ecco. solo alle chiese. Ah, solo alle chiese, ecco. È applicata alle chiese, queste cattedrali sono queste chiese sono una testimonianza straordinaria di questa ricerca che è diventata uno stile poi architettonico, una ricerca per rendere efficace, no, la costruzione rispetto all'input sismico, ma questo non c'è stato altrettanto impegno, per esempio, nella difesa delle case di abitazione. Ecco, quindi In questo senso sono più simili a noi, allora. in un certo senso sì. Ecco, noi abbiamo avuto anche tantissima perdita dei nostri monumenti, per esempio nella fase, le fragilissime chiese del 600 e del 700, con le cupole, i muri assottigliati, queste sono state esposte moltissimo ai danni dei terremoti e i terremoti hanno veramente logorato il nostro patrimonio culturale da questo punto di vista. La storia e la memoria. Ben ritrovati. Il radiodocumentario che vi proponiamo questa sera è dedicato al generale George Patton, passato alla storia come il generale d'acciaio. Nella città di Bastogne, i tedeschi accerchiarono gli americani. Solo il generale Patton riuscì a ribaltare la situazione a favore dei propri soldati. Vi segnaliamo che la versione integrale del documentario andrà in onda su History Channel domenica 14 giugno alle 17. Dicembre 1944. Hitler perde il controllo dell'Europa man mano che le forze alleate avanzano sul fronte ovest del confine tedesco. Nel disperato tentativo di dividere gli alleati e prendere la città belga di Anversa, lancia 29 divisioni ben armate sul punto debole delle linee americane, la foresta delle Ardenne, in Belgio. Le sue truppe avanzano ferocemente e si dirigono verso la Mosa, minacciando la città di Bastogne. I comandanti alleati, incluso il generale George Patton a 160 km a sud da lì, non hanno idea della gravità della situazione. Luglio 1944. Patton e la sua terza armata arrivano in Francia. Negli ultimi 5 anni Patton è stato assorbito dalle tattiche del suo nemico. I tedeschi chiamano la loro dottrina militare Blitzkrieg o guerra lampo. Usano infatti carri armati veloci, fanteria motorizzata e artiglieria supportata da bombardieri in picchiata. Ma Patton sta per mostrare loro la sua risposta. La strategia di Patton consiste nel bypassare il nemico e usare la forza corazzata per neutralizzare le posizioni difensive tedesche con ingegnose manovre, piuttosto che scontri frontali. Nel settembre 1944, Patton respinge i nazisti fino al confine tedesco. Ma la sua avanzata perde slancio. Ha superato infatti le linee di approvvigionamento. E quando gli alleati rivolgono l'attenzione sull'operazione Market Garden del generale Montgomery, Patton non può far altro che fermarsi. Hunter Ellis, esperto militare. Patton freme per riprendere l'avanzata. Crede che una pausa troppo lunga possa esporre gli alleati ad un rischio enorme. Poi, finalmente, dopo mesi di attesa, riceve il via libera. Patton vuole attaccare il cuore della Germania. Il 15 dicembre la terza armata è di nuovo in marcia. Patton progetta di colpire la Germania nel suo più grande polo industriale, la regione della Saar, e posiziona in avanguardia la quarta divisione corazzata. Da mesi i nazisti pianificano segretamente una cruenta controffensiva contro gli alleati. Phil Gioia, storico militare. Hitler riuscì a tenere celati tutti i preparativi di questo attacco. Convogliò diverse divisioni Waffen-SS nella zona, le equipaggiò di armi e attrezzature, nuovi carri armati Tiger, nuovi veicoli, nuove provvigioni. E proprio quando Patton sferra il suo attacco nella Saar, le armate di Hitler lanciano la loro controffensiva 160 km a nord. Gli americani, nella regione belga delle Ardenne, dispongono di scarne divisioni a difesa di un fronte di 120 km. La zona è considerata tranquilla e viene usata per riorganizzare le unità e rifocillare le truppe. 16 dicembre 1944. In un gelido e brutale inverno, Hitler lancia 250.000 truppe e 600 carri armati contro 80.000 americani ignari. Brian Sobel, autore di The Fighting Pattons. La superiorità numerica delle truppe tedesche e la massiccia presenza dei carri armati scatenò il panico fra i soldati, il che determinò il crollo delle linee di difesa. Sotto la pressione dell'attacco nazista, il generale Eisenhower si affretta per inviare i rinforzi nelle Ardenne. La 101esima divisione aviotrasportata ed alcuni membri della decima armata di Patton si precipitano verso Bastogne. Il 18 dicembre gli alleati sono nei guai. Eisenhower aduna i vertici militari a Verdun. Ha bisogno di un solido piano per rispondere all'attacco a sorpresa di Hitler. Frank Jardim, direttore museo Patton di mezzi corazzati. Fra tutti i partecipanti all'incontro di Verdun, probabilmente Patton era il solo uomo presente che sapeva esattamente cosa avrebbero dovuto fare. Ancora Anterellis. Portare un esercito in condizioni terribili in una cruenta battaglia richiederà una forza di volontà inimmaginabile. Ma Patton crede sia stato il destino a portarlo lì. È il momento che ha sempre sognato sin da bambino. George Patton nasce l'11 novembre 1885 nella California del Sud, in una famiglia con una lunga storia militare alle spalle. George ha una mente brillante, ma ha problemi con lo studio. È affetto da un disturbo oggi noto come dislessia. Nel 1903 George segue la tradizione di famiglia e si iscrive presso l'Istituto Militare della Virginia. Un anno dopo riesce ad entrare nell'Accademia di West Point. Eccelle in molte materie, ma viene bocciato in matematica ed è costretto a ripetere il suo primo anno. Ma questo imprevisto lo fortifica. Ancora Brian Sobel. Arrogante era l'aggettivo più usato per descriverlo. Diciamo che non era particolarmente simpatico. Dopo il congedo nel 1909 da West Point, Patton viene assegnato alla cavalleria. Ancora Frank Jardim. L'organizzazione militare più romantica di tutte è la cavalleria. È l'aristocrazia dell'esercito. E Patton è un aristocratico dell'Ovest. Ancora Brian Sobel. Era un cavaliere formidabile, aveva trascorso la sua vita a cavallo. Era naturale per lui. Nel 1912 Patton, un maestro con la spada e con i cavalli, entra a far parte della squadra americana di pentathlon nelle Olimpiadi di Stoccolma, dove arriva vicinissimo alla medaglia. Ma la sconfitta alimenta la sua natura competitiva. Nel 1916, quando è ancora nell'unità di cavalleria, Patton convince il generale Pershing a farlo partecipare alla caccia del ribelle Pancho Villa, lungo il confine del Messico. Ancora Frank Jardim. Andò personalmente ad acquistare una colte nichelata con l'impugnatura in avorio. Insomma, aveva ricreato la pistola perfetta del bravo cowboy e se avesse potuto indossare un cappello bianco, lo avrebbe fatto. Nel 1917 Patton partecipa alla Prima Guerra Mondiale. Sui campi di battaglia in Francia riconosce subito il potenziale di una nuova arma emergente, il carro armato. Ancora Anterellis. Patton è un giovane ufficiale in ascesa. Convince il generale Pershing della necessità di sviluppare una forza armata. Usando i carri armati Renault dalla Francia, Patton crea la prima forza corazzata d'America. Settembre 1918, con 345 carri armati, Patton guida la prima battaglia americana della storia, con mezzi pesanti. I nuovi modelli non sono dotati di sistemi di comunicazione. Gli ufficiali, infatti, si posizionano in testa per guidare la squadriglia. Nella battaglia di Semmiel, Patton viene attaccato di sorpresa dal fuoco nemico. Ancora Anterellis. Patton viene ferito ed è obbligato a ritirarsi dal fronte per il resto della guerra. Dopo la resa tedesca, i fondi militari vengono tagliati e i carri armati messi da parte. Patton ritorna alla cavalleria, dove gli anni passano lentamente, ma sa che il destino ha qualcosa di grande per lui. Con l'invasione nazista dell'Europa, Patton, ora comandante generale, viene incaricato di ripristinare l'unità corazzata. Nel 1941, in Louisiana, durante una prova militare, Patton modifica la tattica e usa armi combinate, quali mezzi blindati, fanteria e forza aerea, come un'unica squadra di assalto. Ancora Phil Gioia. E fu allora che Patton iniziò a sviluppare la dottrina che preannuncia l'attuale concezione militare. Nel 1942 Patton è pronto e conduce i suoi uomini in Nord Africa, la prima grande offensiva americana della Seconda Guerra Mondiale. Poi, nell'invasione della Sicilia, Patton attacca le forze dell'asse e prende Palermo. Si dirige quindi ad est e compete con il generale Montgomery per prendere Messina. La storia riconosce a Patton e all'esercito americano merito e valore. E proprio quando Patton sembra infallibile, schiaffeggia un soldato affetto da nevrastenia. Ancora Brian Sobel. Questo episodio di violenza mette Patton in cattiva luce, ma non viene giudicato dalla corte marziale. Viene invece richiamato in Gran Bretagna e messo a capo della terza armata per lo sbarco in Normandia. Il suo esercito infuria in Francia e alla fine del 44 diviene il nemico più temuto dalla Germania nazista. Il 19 dicembre, Patton dà inizio al suo piano per rispondere all'offensiva nazista nelle Ardenne. In soli due giorni compie un'impresa ritenuta impossibile. Si trova sul fianco sud dell'esercito tedesco. Ancora Brian Sobel. Condurre l'esercito a nord per attaccare i tedeschi durante la battaglia delle Ardenne rimane ancora oggi una delle più grandi azioni della storia militare di tutti i tempi. La storia e la memoria. Continuiamo il radiodocumentario dedicato alla battaglia delle Ardenne e al generale d'acciaio, George Patton. Mentre la terza armata è in movimento, la 101esima divisione lotta tenacemente per la cittadina di Bastogne. Ciò nonostante, viene circondata da migliaia di tedeschi. Phil Gioia, storico militare. I tedeschi non avevano carburante a sufficienza per arrivare ad Anversa. Pensarono quindi di rubare le scorte di benzina americane dislocate sui campi di battaglia. Ma Patton arrivò prima di loro, rovinandogli i piani. Con l'esercito tedesco a corto di carburante, Patton può aprire un corridoio e mandare i rinforzi nella città assediata di Bastogne. Per guidare l'assalto, Patton deve scegliere un comandante aggressivo. E nomina il tenente colonnello Creighton Abrams della 4ª Divisione Corazzata, 37esimo battaglione. Il 22 dicembre Abrams si dirige verso Bastogne con due gruppi di truppe d'assalto dotati di poco meno di 30 carri armati Sherman. Contro di loro i migliori di Hitler, i Waffen SS, dotati di armi anticarro. 22 dicembre 1944. La 101esima divisione lotta per difendere Bastogne, circondata dai tedeschi, sempre più vicini. Ma il generale Patton è deciso a raggiungere i soldati sotto assedio. Hunter Ellis, esperto militare. L'attacco americano è guidato dal tenente colonnello Creighton Abrams. I suoi uomini del 37esimo battaglione dispongono di mezzi altamente sofisticati, i carri armati M4 Sherman. Gli M4 Sherman vengono prodotti con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale in risposta al fuoco dei panzer nazisti. L'M4 possiede uno spessore di corazzatura di 51 mm che protegge i 5 membri dell'equipaggio: conducente, operatore radio nello scafo e capocarro, capopezzo e caricatore in torretta. Ogni M4 può contenere fino a 71 colpi di proiettili altamente esplosivi per il cannone da 75 mm, insieme a 5.000 colpi per la mitragliatrice calibro 30 e 550 per la calibro 50. Ma per un duello fra carri armati, soprattutto quando si tratta di panzer, lo Sherman non può competere. Il Tiger, con le sue 55 tonnellate, è dotato del cannone più potente mai installato su un carro armato. Un temibile 88 mm in grado di perforare un M4 a lunga distanza. Richard Pierce, capocannoniere esercito USA in pensione. Uno Sherman, che si fermava a distanza ravvicinata di fronte ad un Tiger, poteva sparare e non riuscire a penetrare la sua corazza. Avendo una potenza e una corazzatura minore rispetto ai panzer, gli equipaggi degli Sherman imparano presto a manovrare e ad aggirare i nemici. Il 22 dicembre l'unità corazzata del 37esimo battaglione non si risparmia per raggiungere la 101esima divisione a Bastogne. Ad ogni chilometro si avvicinano alla fanteria tedesca, dotata di potenti armi anticarro. A 12 chilometri fuori dalla città, il 37esimo pone una coraggiosa resistenza contro i cannoni tedeschi, i campi minati e la fanteria nemica. L'avanzata viene rallentata. La settima armata tedesca ha ricevuto l'ordine di lottare fino all'ultimo uomo. Frank Jardim, direttore museo Patton di mezzi corazzati. La battaglia fu tra le più violente, una delle peggiori di tutta la guerra. La neve era profonda, le strade ghiacciate e le condizioni insopportabili per i soldati. Uno scontro massacrante. Gli americani sembrano fare due passi avanti e uno indietro. Ma Abrams è pronto ad affrontare qualsiasi difficoltà. Ancora Phil Gioia. Abrams era la personificazione dello spirito di Patton. Non c'era compito troppo grande o missione impossibile. Andava dritto all'obiettivo, sempre e comunque. Ma nella retroguardia Patton è impaziente e non capisce il ritardo. Patton si lancia nella battaglia, incoraggiando i suoi uomini. Ancora Brian Sobel. Secondo lui, un generale doveva comandare dal fronte. I soldati esultavano al suo passaggio. Per lui la leadership voleva dire essere sul campo di battaglia. Fu così per Cesare, per Napoleone, per Annibale, per Alessandro Magno e per George Patton. Ancora Anterellis. Il 25 dicembre 1944, il 37esimo battaglione non riesce ancora a sconfiggere i nazisti che circondano Bastogne. Abrams decide quindi di cambiare tattica ed iniziare a guidare il gioco, aprendo le pagine del manuale Patton. Abrams dispone gli ultimi carri armati rimasti ad ovest, alle spalle dei suoi due ultimi comando. Al calare della notte, pianificano l'ultima avanzata. Abrams riunisce tutte le risorse e traccia un piano di attacco. All'alba, gli Sherman iniziano la marcia. Il 26 dicembre 1944, in una gelida giornata invernale, il tenente colonnello Abrams e gli uomini del 37esimo battaglione danno inizio all'ultimo assalto finale. Ma a 5 chilometri da Bastogne, gli americani vengono colti di sorpresa da un cannone tedesco autopropulso. In un'azione di coraggio, Abrams avanza, esponendo il suo carro Sherman all'attenzione e ai colpi del cannone tedesco. Mentre il resto dei suoi uomini scivola alle sue spalle, Abrams sta per affrontare un duello frontale. L'azione di Abrams apre le porte e il 37esimo battaglione si avvicina a Bastogne. Alle 16.45 del 26 dicembre, il carro armato chiamato Cobra King entra in contatto con la 101esima divisione. Nella divisione di Abrams sono rimasti soltanto altri 4 carri, ma il corridoio è ufficialmente aperto. La liberazione di Bastogne non segna la fine della controffensiva. L'obiettivo di Patton è ora spingere i tedeschi sui confini originali. 1 gennaio 1945. Patton ordina ad ogni batteria di aprire il fuoco per 20 minuti. Spera che lo sbarramento spaventi i nemici. Ma i nazisti non demordono. Martin Morgan, direttore di ricerca museo del D-Day. La Germania nazionalsocialista ha ancora un patto di belligeranza in essere. Non è pronta a dare un'immagine di paese sconfitto. Il Führer rifiuta di cedere Bastogne e intima un ultimo disperato blitz. Ordina la presa della città. I tedeschi sono di nuovo pronti all'azione. I capi nazisti ordinano alle truppe nelle Ardenne un altro e violento assalto. Ancora Anterellis. Ma Hitler ha un altro obiettivo. Vuole distruggere le forze alleate, iniziando da Bastogne. Ordina quindi di radere al suolo la città. Questa offensiva è un atto di disperazione militare. Il 1 gennaio, la 6ª Armata Panzer SS si muove in posizione e circonda Bastogne, mentre la Brigata Führer ha l'ordine di bloccare il corridoio alleato per la città. 8 divisioni tedesche sono pronte al massacro. Ancora Phil Gioia. I tedeschi erano determinati a prendere Bastogne. Non dimenticate che Hitler aveva inviato lì le sue truppe migliori, con ordini ben precisi. E i soldati tedeschi erano uomini addestrati a tutto, quando motivati e ben equipaggiati. E questi lo erano, e le SS erano i migliori soldati di Hitler. I nazisti riversano le loro frustrazioni su Bastogne, colpendo senza tregua. Il 3 gennaio, Hitler ordina un altro attacco sulla città. Di nuovo, i suoi difensori resistono. Ancora Frank Jardim. L'esercito tedesco gioca qui il suo ultimo colpo. Le ultime e migliori truppe sono esauste e nettamente ridotte di numero. Sanno di non avere scampo. È questione di tempo. La fine è ormai vicina. Patton si muove velocemente per aprire un percorso fino al Reno. Il 16 gennaio, la terza armata si scontra con le forze della prima armata a nord Aufalise, neutralizzando ciò che resta dell'esercito nemico. Gli alleati ora occupano il fronte originale. Ancora Brian Sobel. La controffensiva delle Ardenne è stata l'ultimo e vero slancio bellico volto alla sconfitta definitiva della Germania. Patton, grazie alla sua straordinaria forza di volontà, ha reso possibile la zampata finale. Altri giorni di tenaci combattimenti si susseguono nelle Ardenne, ma tutte le strade conducono ora alla decimazione e al crollo del Terzo Reich. Patton e la Terza Armata, ribattezzata Fortunata, marciano in Europa, contribuendo alla liberazione della Francia e alla distruzione del cuore della Germania. Nel maggio 1945 la Germania si arrende. La vittoria di Patton segna il culmine del sogno di una vita. La controffensiva delle Ardenne è il suo destino compiuto. Ancora Brian Sobel. È stata la convergenza di una vita di studi militari, di una grande leadership, di una coraggiosa terza armata e di un'arma innovativa e sofisticata come il carro armato M4 Sherman, che hanno permesso di creare un momento memorabile nella vita di un uomo, sfociato nella controffensiva delle Ardenne. Nell'estate del 1945, Patton è alla testa delle truppe che occupano la Germania. Ma a dicembre riceve l'ordine di rientro. Il giorno prima della partenza, un autocarro militare americano travolge la sua vettura. Patton riporta gravi ferite alla colonna vertebrale. George Patton muore il 21 dicembre 1945, dopo circa un anno dalla sua eclatante vittoria nelle Ardenne. Viene sepolto come un soldato semplice a Lussemburgo, vicino agli uomini che ha condotto sul campo. Ancora Brian Sobel. Sembra quasi una storia narrata in un vecchio libro. Il grande generale conduce la sua armata alla vittoria e muore, sepolto alla testa delle sue truppe in terra straniera. Ed è così che la storia finisce. Prima di chiudere, vi ricordiamo che la versione integrale del documentario che avete appena ascoltato andrà in onda su History Channel domenica 14 giugno alle 17. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera e Vittoria Mussini. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte.